Ancora teatro con Betta Cianchini, ci sei Betta? Eccomi! Oh, ben ritrovata su queste frequenze. Con te per parlare di Ugo, con le tre lettere tutte puntate, un appuntamento addirittura dentro Radio Rock, nello spazio, negli spazi di Radio Rock, in via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio, dal venerdì dalle 20:30, giusto? Venerdì domani. Allora, sì. Domani sera 20:30 una degustazione di vini a cui teniamo molto ovviamente, perché vi diamo il benvenuto così, e poi alle 21:30 invece iniziamo questo guarda, è un po' difficile dare una, come dire, una definizione, perché è sicuramente uno spettacolo, ma soprattutto è una mossa coraggiosa di tante donne. Domani sul palco si alterneranno ben 10 attrici. Solo attrici. Solo attrici, ma ci teniamo proprio a sottolineare che non siamo nate come collettivo, capito, solo donne. No, nel senso che non vogliamo essere solo donne, perché non vogliamo gli uomini, ma semplicemente è una sorta di blitz coraggioso. Vogliamo provare dei pezzi nuovi, vogliamo provarli tra di noi. Ci sarà anche una sorta di lab, che sarà una sorta di costola, di spin-off da questo progetto. E la cosa interessante è che ognuna di noi sarà sul palco con un pezzo ironico, spietato, acido, di massimo 8 minuti. Che non è affatto semplice, perché scrivere un pezzo di 8 al di sotto di 8 minuti è insomma una bella prova. No, capisco questi dettami dell'orario, perché per esempio e qui ti invito pubblicamente, sabato 13 gennaio stiamo facendo una serata nell'ambito del quarantennale di Radio Onda Rossa qui a San Lorenzo, al nuovo Cinema Palazzo, una serata a fiume con tanti attori, attrici, musicisti e musiciste, e anche lì abbiamo messo come paletto indicativo una durata di 10 minuti a testa massimo. Così si può esprimere. E quindi, tra l'altro, rispetto alle 10 attrici che sono domani lì da voi, molte sono state anche all'interno del radioteatro, quindi è un po' una serata che fa familiarità, insomma. Sì, beh, insomma, diciamo che il parterre artistico sono tutte belle donne agguerrite, belle coraggiose. Ripeto l'aggettivo coraggioso, perché è un format molto coraggioso. E tra parentesi, insomma, voglio sicuramente citare Cristiana Vaccaro, certo, che mi ha chiamata in questo progetto con l'ausilio di Francesca Stassa, che oltretutto è una regista che sta curando. Tu immagina tutte queste donne che si barcamenano con tutto quello che concerne anche la parte tecnica. Francesca una grandissima, lo sottolineo. Bene. E poi ancora Cristina Pellegrino, Elisa Simonelli, Arianna Dell'Arti, che conoscerai sicuramente, certo, Aurora Perez, Veronica Raimo, Paola Michelini, Doris Said, Marisa Cordone, Valeria Belardelli, Francesca Costini, Nicole Balassone, Carmen Barbieri. E quindi ecco, le ho citate tutte, ci tenevo insomma, perché sono 15, saremo domani come serata 15, ma 10 in scena. Ok, a questo punto ripeti luogo, orario e anche riferimenti web. Allora, sì, Ugo è così come si pronuncia, come Fantozzi, ma è un acronimo che non vi stiamo a dire, perché lo troverete su Facebook. Le prenotazioni si possono fare su Tlon, Tlon che è una magnifica casa editrice, e non solo, è anche un magnifico posto che tu conoscerai, ma anche una libreria teatro che è dietro il Habitat, quell'hotel molto particolare vicino Piramide. Quindi andate su Tlon, c'è un evento che si chiama appunto Ugo. Noi siamo a Radio Rock, quindi proprio nella sede della radio, quindi è bellissima questa cosa che stiamo facendo, da radio a radio, insomma, le radio ancora libere che si parlano, mi sembra una cosa meravigliosa. E la sede è a via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio, zona Portonaccio. Alle 20:30 degustazione di vini che vengono offerti, anzi ci tengo, da Terre di Petrara, e alle 21:30 iniziamo. Il costo di soli 10 euro con degustazione di vini e tutto quanto, e poi ovviamente daremo anche fastidio alla diretta, no? Perché insomma incursioni in diretta, assolutamente bisogna dar fastidio sempre a chi sta in diretta, no? È proprio un assioma da seguire. Allora Betta, un abbraccio, un in bocca al lupo, e chiaramente tu poi sei invitata sabato 13 gennaio al Cinema Palazzo. Perfetto, assolutamente. Tanto il pezzo, guarda, siamo tutte quante abbiamo dei pezzi al di sotto dei 10, quindi vi sosteniamo, siamo pronte noi. Bene. Va bene, un abbraccio, un bacione, grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie Federico, ciao.